Lui continua dicendo: la parodia è considerata dalla legge sul diritto d'autore un'opera del tutto autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento. Praticamente dice che facendo questa citazione non si può danneggiare l'identità personale e morale dell'autore, della fonte, insomma, quindi dell'autore originale. Anche se ci stanno questi invece, direi che sono esempi dubbi. Beh, insomma, su questo forse qualche critica è possibile farla. È veramente una vergogna che Battisti abbia copiato Grignani. È vero? La trovo una cosa indecente. Indecente. La trovo una cosa indecente. Però rimanendo in realtà sulla musica classica, io è proprio su Mozart. In realtà, secondo me, quello che lui, che il Bovi intende. C'ho qua un esempio positivo ed è proprio preso da una canzone di Muse che riprende una parte di opera di Mozart per rileggerla in chiave moderna. Quindi, a mio parere, in realtà, questo invece, quello che andiamo adesso ad ascoltare, è un qualcosa di positivo. Allora, fammi ascoltare un po', va? Questo era preso dal concerto del clarinetto del 1791 di Mozart, nonché a sua volta era stato preso negli anni 70 dai Rovescio della Monedaglia e poi nel 2001 dai Muse. E secondo me queste sono riletture che vanno bene, detto proprio in maniera... Senti, tagliamo la testa al toro, quindi praticamente potremmo dire, per fare una summa un po' di quello che stiamo dicendo e del pensiero, insomma, spero che non se ne abbia male, del buon Michele Bovi, che se la ripresa del fraseggio musicale o della melodia o di quella parte del componimento musicale è, diciamo, tra virgolette sfacciato, cioè evidente, questo si può chiamare un omaggio all'autore originale. Sì. Cioè, nel senso che il plagio è più dove si vede un tentativo più subdolo di far passare per mio quello che è tuo. Esatto. Potremmo dire che un po' la differenza è questa tra l'omaggio e il plagio, insomma. Certo. Anche certo. Se mi accorgo che spesso, insomma, per quanto riguarda la musica, si può sempre camminare un po' sul filo del rasoio, perché è sempre difficile.